Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Respiro, nella quale affronteremo la sesta tappa di avvicinamento ad Ecopolis, la fiera internazionale che si svolge a Roma dall'1 al 3 di aprile, fiera della quale stiamo un po' anticipando i temi in attesa di poterla seguire ed esplorare davvero. A Ecopolis, ricordiamo, partecipano amministratori e aziende che sono attivi in vari ambiti. Nei precedenti appuntamenti abbiamo parlato qui a Respiro di mobilità sostenibile, energie rinnovabili, rifiuti, acqua, architettura ecosostenibile. Trovate tutto sul nostro sito nell'archivio della trasmissione. Oggi parliamo di salubrità ambientale. Per affrontare questo tema abbiamo come nostro primo ospite Roberto Caracciolo, direttore Dipartimento Ambiente dell'ISPRA. L'ISPRA, che è l'ex APAT, è l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale. L'ISPRA pubblica ogni anno un corposo rapporto annuale sulla qualità dell'ambiente, in particolare l'ambiente urbano. Quest'anno il rapporto lo presenterete, vero Caracciolo, a Ecopolis, e quindi per i dettagli bisognerà aspettare. Però le chiediamo quali sono le linee guida sulle quali vi siete mossi quest'anno, ma anche negli anni passati ovviamente, per redigere questo rapporto. Sì. Allora, innanzitutto il motivo di questo rapporto nasce dal fatto che la maggior parte della popolazione ormai si va a concentrare sempre più nelle aree urbane, e questo fanno delle aree urbane un particolare tipo di ambiente che deve essere tenuto sotto osservazione, perché rappresenta da una parte una delle principali fonti di pressione sull'ambiente naturale, e dall'altro perché, poiché la maggior parte della popolazione vive in quell'ambito, noi vogliamo che quell'ambito presenti delle caratteristiche di qualità accettabili. Per questo motivo ormai siamo arrivati alla quinta edizione del rapporto dell'ambiente nelle aree urbane, che si affianca a altri tipi di rapporto sullo stato dell'ambiente, che sono l'annuario, il rapporto sui rifiuti, sulle acque, che sono più tematici. Questo invece è concentrato a un particolare tipo d'ambiente. Rispetto agli anni precedenti, la struttura non è che cambia in maniera significativa, anche se ormai si è presa l'abitudine di dare un focus per ciascun anno a un particolare tema. L'anno scorso erano le aree verdi urbane, no? L'anno scorso erano le aree verdi urbane, e quest'anno, poiché diciamo che noi lo presentiamo adesso, ma porta come anno di riferimento il 2008. Il 2008, si sa, è stato l'anno mondiale del pianeta Terra, dedicato quindi ai problemi soprattutto della geologia, e quindi tutta la parte del suolo, e quindi abbiamo pensato di fare un focus sul suolo nelle aree urbane, perché uno immagina il suolo soprattutto una questione della parte non antropizzata, ma gioca un ruolo importante ai fini ecologici anche nelle aree urbane, e quindi è chiaro che, per esempio, da un punto di vista del patrimonio culturale, il sottosuolo di Roma rappresenta certamente, dà una ricchezza enorme alla trattazione, e quindi ci sarà un capitolo di questo focus dedicato al Foro di Augusto a Roma. Così come c'è il problema che riguarda la impermeabilizzazione. Una delle pressioni, io dicevo che le aree urbane rappresentano una delle principali fonti di pressione sull'ambiente naturale. Sì. Una pressione è determinata proprio dal fatto che noi, quando costruiamo, quando realizziamo un'area urbana, di fatto impermeabilizziamo il suolo, cioè impediamo che l'acqua meteorica vada nel sottosuolo, e questo ovviamente rappresenta una frattura negli equilibri idrologici che c'era in precedenza, e quindi è un altro aspetto che va studiato per vedere quali modificazioni introduce. Un lavoro amplissimo. Che altri aspetti vi è toccato affrontare qua e là per l'Italia? Sempre con riferimento Per esempio, un'altra cosa interessante che riguarda la biodiversità nel suolo, no? Cioè il tipo di flora e di fauna che è presente nel sottosuolo delle aree urbane. Ci sono questioni che riguardano anche il rischio idrogeologico. Se sappiamo quanto sia importante studiare e tenere sotto osservazione il rischio idrogeologico, che sappiamo i danni diciamo le vittime che può determinare, soprattutto per il fatto che l'urbanizzazione si è spinta anche in quelle aree che forse sarebbe meglio non andare a toccare da questo punto di vista, per non parlare di altri rischi legati al rischio vulcanico. Sappiamo come sotto il Vesuvio, sopra il Vesuvio si stia assistendo a un'urbanizzazione, quindi sono tutte problematiche legate a come il suolo viene diciamo vissuto nelle aree urbane. E questo per il focus, diciamo, poi ci sono altri aspetti, si riprende anche in qualche misura il focus dell'anno scorso legato al verde nelle aree urbane, si farà ovviamente qui soltanto un minimo accenno, perché su questa problematica noi stiamo portando avanti un progetto un po' più ambizioso per avere una diciamo dei dati che siano più realistici, ma noi non vogliamo limitare a dare questi dati, noi vorremmo che questi dati fossero utilizzati. Infatti questo le avrei chiesto senz'altro, perché il nostro rapporto è particolarmente significativo, corposo, c'è dentro veramente analisi di tutti i tipi, a chi lo destinate e a chi vorreste arrivasse anche. Certo, allora sicuramente noi vogliamo e in questo senso stiamo lavorando con le amministrazioni cittadine, in alcuni casi direttamente con la singola amministrazione cittadina e più in senso lato con l'ANCI, che ovviamente è l'organizzazione nazionale di tutti i comuni d'Italia, proprio perché vorremmo che questo lavoro fosse messo a servizio dell'amministrazione cittadina per pianificare, per capire se I loro interventi hanno prodotto dei risultati soddisfacenti o no, cosa bisogna correggere, e comunque servono di base alla programmazione degli interventi. Senta, la riporto in conclusione al rapporto sì, che state scrivendo, un po' in sì, confronto a quello dell'anno scorso, diciamo. L'anno scorso segnalavate per esempio una diminuzione delle emissioni totali di PM10 nelle città italiane. Prosegue questo andamento? Noi dicevamo l'anno scorso che stiamo assistendo dai dati a una diminuzione delle emissioni, che non significa che la qualità dell'aria per la presenza di questo tipo di contaminante sia migliorata. Le fonti di emissione delle sostanze contaminanti in gran parte sono dovute ai processi di combustione, no? In generale, quindi quando parlo di processi di combustione parlo anche del riscaldamento domestico, del trasporto, della produzione di energia e quant'altro. Allora, certamente i comuni, non prendo neanche in considerazione la questione del blocco del traffico, perché quello è assolutamente un palliativo. Invece si può fare molto più a livello quelle amministrazioni che dettano i programmi di ampio respiro, interventi sull'edilizia. Lì bisogna finanziare o sostenere un miglioramento dell'edilizia, cioè interventi con l'edilizia potrebbero portare veramente dei risparmi, diciamo da poi risparmi che non vanno soltanto nella direzione di un risparmio di emissioni e quindi un miglioramento dell'ambiente, ma vanno anche nella direzione di un risparmio economico del cittadino, certo, dei consumi, e quindi della collettività. Quindi ci sono una serie di interventi che fanno capo un po' a un livello più alto, dal governo alle regioni, che poi devono pianificare e devono sostenere questi interventi. Le amministrazioni cittadine possono fare tanto sul piano certamente della mobilità, perché a parità di veicoli circolanti noi possiamo avere dei tassi di emissione più o meno elevati a seconda di come io regolo la mobilità, perché se la macchina ha una velocità media di 3 km all'ora perché c'è traffico, evidentemente, poiché non si consuma solo con i chilometri percorsi ma anche per quanto tempo il motore è acceso, in funzione, allora è chiaro che in quel caso, quindi favorire i processi di mobilità, una mobilità sostenibile è un obiettivo che deve avere delle direttive sicuramente a livelli più alti, ma che è una competenza soprattutto dei comuni e quindi delle amministrazioni cittadine. Il verde urbano è un altro settore in cui le amministrazioni cittadine possono fare parecchio. Ci sono tanti aspetti, però ovviamente l'intervento più massiccio deve essere posto in capo alle amministrazioni di livello più alto. Senta, le chiedo per chiudere se ha notato da qualche parte in Italia una qualche iniziativa che le è piaciuta molto e che dovrebbe essere esportata, insomma, nelle altre città italiane. Adesso non vorrei fare nomi di città perché anche perché... Allora ci dica l'idea, senza dire la città, poi lo scopriranno. No, guardi, allora le iniziative che sono state adottate soprattutto in certi contesti territoriali, parlo così genericamente del nord, in particolare del nord-est, non solo favorire la raccolta differenziata, ma favorire quei circuiti che permettono poi l'utilizzo, perché se io favorisco la raccolta differenziata, ma poi il differenziato non sono in grado di metterlo in un circuito virtuoso di riciclaggio, di recupero dei rifiuti, ho ottenuto un risultato sicuramente migliore, però sarebbe sicuramente meglio se io creassi dei circuiti di recupero che affiancano l'azione della raccolta differenziata. Grazie Roberto Caracciolo dell'ISPRA. Grazie a lei. Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Dopo la pausa proseguiamo parlando sempre di salubrità ambientale, che è il tema della nostra puntata di oggi, che ricordiamo è dedicata a Ecopolis, questa fiera che si svolgerà a Roma e che noi stiamo seguendo passo passo in questa trasmissione. Ora andiamo a incontrare tre aziende aderenti ad AssoSky, associazione per lo sviluppo della competitività ambientale d'impresa, che ha l'obiettivo di far crescere una nuova cultura imprenditoriale, leggiamo testuale dalla loro mission, una nuova cultura imprenditoriale in cui la gestione ambientale venga adottata quale elemento per rafforzare la competitività dell'impresa a livello sia locale sia globale. Diamo il buon pomeriggio a Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont e presidente di AssoSky. Buon pomeriggio. Voi avete una grande storia in tema ambientale come azienda Novamont. Le chiedo però, prima di tutto, come presidente di AssoSky, siete nati nel 2006 con l'obiettivo che abbiamo detto poco fa. In questi tre anni come vi siete mossi per realizzare i vostri obiettivi? Diciamo che il punto fondamentale, il momento di aggregazione che abbiamo avuto le varie aziende appunto di AssoSky è nato intorno a un progetto che era il progetto Intend, un progetto europeo che guardava a una certificazione ambientale di prodotto, all'EPD, all'Environmental Product Declaration, che era appunto un sistema molto complesso e molto scientifico per caratterizzare gli aspetti ambientali di un prodotto. Questo è stato il punto di partenza. Ci siamo poi resi conto che l'EPD era un mezzo interessantissimo ma molto difficile da comunicare, e quindi abbiamo iniziato un percorso complesso che però ci ha portato al un primo regolamento per AssoSky sulla multietichetta ambientale, che è un modo per permettere di definire un impatto ambientale di prodotto o anche di sistema, e quindi può valorizzare in maniera notevole, dare a degli strumenti di comunicazione che siano idonei per aziende che abbiano sposato l'ambiente e la missione non soltanto ambientale e la competitività ambientale, di avere dei mezzi per esprimere e valorizzare i propri prodotti attraverso appunto un modo di comunicazione complesso da un certo punto di vista, ma che aggrega i vari parametri ambientali nella maniera più semplice possibile, un po' come quello che si fa con i frigoriferi oppure con i prodotti a basso impatto, quindi cercare di avere una lettura di tutti i parametri ambientali in modo semplice, delle materie prime, del fine vita e dell'uso di un prodotto, quindi life cycle thinking, ma in modo chiaro e per categorie di prodotto. Che è un obiettivo meritorio per semplificarci anche la vita come consumatori. Esatto. Per dare al consumatore una lettura immediata delle qualità del prodotto che ha in mano, e quindi è stato un lavoro molto complesso e siamo riusciti ad arrivare proprio nel 2008 a completare il progetto e in questo momento incominciamo ad avere le prime etichette ambientali e la prima etichetta è stata data a Palm, quindi diciamo avete qui poi anche l'ospite di Palm. Certo, tra pochissimo lo presentiamo. Ambientale, e ce ne sono altre in altri prodotti che stanno venendo, che stanno arrivando e in pratica insieme ad un regolamento generale sulla multietichetta, poi per ogni categoria di prodotto è possibile diciamo declinare la multietichetta in modo tale che ogni categoria, ogni settore che può essere un prodotto ma anche un comune per esempio, ma anche un servizio, possono essere qualificati attraverso la multietichetta. Introduco adesso un altro degli ospiti che abbiamo in collegamento con noi, Gianfrancesco Imperiali, presidente ABB SPA, buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio anche a voi. Senta, per lei, per la vostra azienda, che cosa ha significato nella vita quotidiana impegnarsi per la riduzione dell'impatto ambientale? Intendo dire proprio anche internamente come azienda, non solo come prodotti. Noi abbiamo cercato di concentrare la nostra attenzione molto sulla dichiarazione ambientale di prodotto, tant'è che abbiamo come gruppo ABB abbiamo qualche centinaia di queste EPD, dichiarazione ambientale di prodotto, e appunto ci siamo concentrati su queste, sull'analisi del ciclo di vita, che è appunto l'impatto ambientale in tutto il ciclo di vita di un qualsiasi prodotto, comprendendo dall'estrazione delle materie prime, l'assemblaggio, il trasporto, l'utilizzo chiaramente, anche lo smaltimento del prodotto stesso. Diciamo, in questa analisi poi dopo, se vogliamo, ha un'importanza particolare chiaramente l'efficienza energetica durante la fase di utilizzo, che è diciamo un tema che a noi sta moltissimo a cuore. Che vuol dire l'efficienza energetica durante la fase di utilizzo? Declinato sui nostri prodotti si capisce per esempio che quando si parla di motori elettrici l'utilizzo di inverter per i motori elettrici fa sì che i motori consumino solo quello che è strettamente necessario per il loro impiego, nel senso che, tanto per essere chiari, senza l'utilizzo di questi inverter i motori girano sempre al massimo della potenza e il controllo avviene attraverso misure aggiuntive, un po' come, tanto per fare un esempio semplice, un po' come se andando in automobile si guidasse sempre con l'acceleratore pigiato al massimo e poi dopo per rallentare con l'acceleratore pigiato al massimo si usasse il freno. Certo. Ecco, di fatto questa è la maniera in cui funzionano la maggior parte dei motori del parco industriale installati in tutto il mondo, il che dà la misura di quanta energia elettrica si butta via, e mentre invece appunto l'utilizzo dell'inverter permette di utilizzare solamente l'energia elettrica che è effettivamente necessaria in tutte le fasi di utilizzo dei motori. Se solamente si utilizzasse questa tecnologia nei motori installati in Italia, assieme all'utilizzo di motori ad alta efficienza, noi potremmo risparmiare circa 20 terawattora all'anno in Italia, cioè risparmieremmo l'energia corrispondente al consumo di 5 milioni di persone. Alessio Alberini, invece, dell'ufficio marketing e comunicazioni di Palm, vi siete portati a casa questa prima etichetta, quindi siete stati voi? Esatto, siamo stati i primi, come ci sembra degna conclusione di un percorso molto lungo e articolato che abbiamo compiuto in Palm nel momento in cui si è deciso di ripensare completamente il concetto di pallet. Lo abbiamo fatto riprogettandolo secondo logiche di eco-design, quindi per ottimizzare i pesi, i volumi e le capacità di carico del pallet stesso al fine di usare il minimo di materia prima necessaria. Lo abbiamo fatto utilizzando materie prime solo certificate PFSC o FSC, cioè che provengono da coltivazioni di foreste adibite al taglio, quindi seguite in modo particolare che non impattano sull'ambiente. L'abbiamo fatto attraverso lo studio di LCA, cioè il Life Cycling Assessment di tutta la filiera di produzione, andando a valutare gli impatti di ciascuna attività produttiva, e infine quindi l'abbiamo chiuso questo lavoro potendo ottenere la prima etichetta di Assosky, che certifica appunto l'origine degli approvvigionamenti, il processo produttivo, la destinazione in fine vita il tipo di energie utilizzate negli stabilimenti, che nel nostro caso sono tutte da fonti rinnovabili. Siccome il tempo stringe, adesso chiedo a tutti e tre i nostri ospiti, poiché questo è anche uno degli obiettivi di AssoSky, se vi ha dato più slancio sul mercato l'essere attenti all'ambiente. Katia Bastioli, per Novamont, diciamo in questo noi caso. Abbiamo giocato tutta la nostra, il nostro sviluppo in questa direzione, quindi noi siamo, ci sentiamo un po' un caso studio, perché non abbiamo nessuna produzione che non sia produzioni appunto impostate sull'impatto futuro, l'impatto ambientale, la minimizzazione dell'impatto ambientale attuale e futuro in una logica di sistema. La nostra logica è quella di passare, di essere il caso studio per passare da un'economia di prodotto a un'economia di sistema in cui più partner intorno a un prodotto costruiscono un sistema. Per esempio, abbiamo lavorato moltissimo nelle raccolte differenziate, i materiali biodegradabili. È evidente che il lavoro che abbiamo, il percorso che abbiamo scelto è molto complesso e lungo, però devo dire che ci sta dando dei risultati importanti, perché stiamo creando cultura sul territorio. Imperiali, la stessa domanda per lei: che slancio vi ha dato? Vi ha dato nuovo slancio l'essere attenti? Questa cultura ambientale fa parte proprio della strategia dell'azienda, ma noi abbiamo cercato di diffonderla anche presso i clienti, per cui oltre, diciamo, che a vendergli dei prodotti con le caratteristiche di cui abbiamo parlato poc'anzi, noi abbiamo addirittura lanciato un premio per i nostri clienti, il cosiddetto Energy Efficiency Award, in cui appunto abbiamo fatto concorrere i nostri clienti per dimostrare le loro performance ambientali. Questo c'è stato la prima edizione l'anno passato, lo replicheremo quest'anno e negli anni a venire, proprio appunto per far capire che al di là appunto di vendergli prodotti sostenibili da un punto di vista ambientale, ci teniamo anche che i nostri clienti, non solo con i nostri prodotti ma con tutto il loro ciclo produttivo, anche siano efficienti da un punto di vista ambientale e del consumo dell'energia. Alberini, vi ha reso questo impegno ambientale? È stato positivo da un punto di vista anche dei conti di bilancio? Potrei dire assolutamente di sì. Per noi è stata una scelta soprattutto strategica, quindi che andava a impattare sulla reputation dell'azienda, quindi guardando anche nel lungo periodo. In questo momento ci viene riconosciuto il valore del percorso che abbiamo compiuto e si guarda a noi anche soprattutto come benchmark su attività che abbiamo svolto. Quindi ci viene riconosciuto il valore, si parla di progetti e non di semplici prodotto, quindi questo per noi è il valore aggiunto che siamo in grado di offrire, il valore aggiunto che il mercato ci riconosce e che ci permette di muoverci con un'autorevolezza che altrimenti non avremmo potuto avere. Grazie a tutti gli ospiti, a Valeria Bernardi in regia. Respiro torna la prossima settimana alla stessa ora.